Visionari, l'appuntamento con il cinema il giovedì su Radio Onda Rossa 87.9, la modulazione di frequenza. Dal 1977 libera da padroni e pubblicità, la voce dei senza voce, la radio di chi se la sente. Ognuno e ognuna di voi può contribuire a farla vivere, ad esempio con la sottoscrizione sul numero di conto corrente postale 6180 4001, da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volsci 56 00185 Roma, oppure consultando il sito della radio, che è ondarossa.info. sulla homepage c'è l'opzione sostieni per la modalità PayPal. Dicevo, il cinema come ogni giovedì. La scaletta della trasmissione di quest'oggi la trovate sul sito della radio, la voce trasmissioni Visionari, oppure anche sulla pagina Facebook di Visionari, mentre l'indirizzo di posta elettronica per comunicare con noi è visionari@ondarossa.info. Comunque, gli ospiti di questa giornata dovrebbero essere l'attore Fabrizio Gifuni, doppiatore del film Pasolini in uscita in sala oggi giovedì 25 settembre, Giulio Manfredonia, regista del film La Nostra Terra, uscito in sala lo scorso 18 settembre, Roberto Proia di Notorious Pictures sulla distribuzione del film Posh in uscita in sala anche questo oggi, Giovanni Cioni, regista del documentario Per Ulisse, programmato qui a Roma al Nuovo Cinema Aquila oggi giovedì 25 settembre, Gabriele Salvatores, regista del film Italy in a Day, un giorno da italiani, che andrà in onda su Rai 3 sabato 27 settembre, e sarà presente la domenica, il giorno dopo, all'arena di Piazza San Cosimato a Trastevere, condotta, realizzata dai giovani e dalle giovani ex occupanti del Cinema America. E poi Italo Spinelli, direttore della 15ª Asiatica, incontri con il cinema asiatico qui a Roma dal 26 settembre fino al 4 ottobre, Steve Della Casa, regista del documentario I Tarantiniani, Claudia Marelli, regista del documentario Emmaus. E sulla scaletta trovate anche le uscite in sala di oggi, le altre uscite in sala di oggi giovedì 25 settembre, nostri suggerimenti e indicazioni sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film in TV per quanto riguarda la settimana sul piccolo schermo, il link per ascoltare la puntata precedente, ma anche l'archivio del 2014 e del 2013. Diamo inizio ai collegamenti. Come annunciato, Steve Della Casa, ben ritrovato su queste frequenze. Buongiorno, salve. Come stai intanto? Ma abbastanza bene, abbastanza bene. Sempre più tarantiniano che mai, come si dice. Ecco, proprio a questo proposito parliamo con te oggi di un documentario che avevi presentato al Festival del Cinema di Roma dello scorso anno, I Tarantiniani. Allora, raccontacelo in breve, di cosa si tratta, Steve? Allora, visto che si è parlato tanto di Quentin Tarantino, è stato un po', diciamo, il fenomeno del cinema mondiale degli ultimi anni, ho pensato che si parlava tanto di Quentin Tarantino, ma pochissimo dei registi che hanno ispirato Quentin Tarantino, dei registi italiani di fin d'azione, dell'orrore, di fantascienza, eccetera, che Quentin Tarantino ha tanto amato, tanto da dedicare gli ultimi due film a due rifacimenti proprio di film italiani, perché Bastardi senza gloria è un rifacimento di quel maledetto film blindato, mentre Django Unchained è naturalmente un rifacimento di Django. Sono due rifacimenti molto diversi, ma Quentin Tarantino ha sempre rivendicato il fatto che la fonte ispiratoria, sia per la storia sia soprattutto per le situazioni, la storia lui l'ha molto modificata, insomma, però per le situazioni si è sempre rifatto a quel cinema che gli piaceva tanto, perché era un cinema semplice, sadico, molto capace di valorizzare l'azione e capace di scolpire dei personaggi indimenticabili che lui a sua volta ha reso ancora più indimenticabili. Sì. Oh, Steve, diciamo, quella si fa riferimento a una stagione, quella del cinema italiano di genere, chiamiamolo così, nel decennio 60 e 70, che è stato un momento abbastanza glorioso, aureo per il cinema italiano, e che viveva comunque di tutti i fermenti che hanno attraversato la società civile, sia a livello sociale che politico che artistico. Eh sì, perché quel cinema ha avuto due grandi caratteristiche. Uno era un cinema che piaceva tantissimo in Italia e anche nel resto del mondo. Prova ne è che Tarantino, che è americano, lo ha visto e lo conosceva bene, lo vendeva anche, perché come forse ormai tutti sanno, lui a lungo ha lavorato in un negozio di videocassette e quindi sapeva che cosa vendeva, sapeva che cosa trattava, quali erano gli argomenti. E quindi era un cinema che aveva una grande capacità, insomma, di andare in giro, di piacere al pubblico non solo italiano. Mm-hmm. La seconda caratteristica è che era un cinema che di fatto è imbevuto di tutto quello che succedeva in Italia e nel mondo negli anni 60 e 70. Diciamo che tra i western, i film di guerra, i film d'azione, i polizieschi, eccetera, possiamo raccontare, anche se gli scenari sono completamente diversi, possiamo raccontare, non so, il 68, il terzo mondismo, le rivolte in piazza, la nuova delinquenza che attraversa le città, il terrorismo, insomma ci sono tanti fenomeni di quegli anni che nessun cinema ha saputo raccontare così bene come il cinema d'azione. E per esempio credo che se uno vuole raccontare il terzo mondismo, che era una componente tipica del 68 italiano, credo che bisogna ricorrere a certi western tipo Vamos a matar compañeros, Giù la testa, Corri uomo corri, La resa dei conti. Se uno vuole raccontare le rivolte dei disagiati, anche lì il western è di grande aiuto. Se uno vuole raccontare il terrorismo, beh, ci sono i polizieschi italiani, insomma, dove si allude all'uccisione del commissario Calabresi, ma anche alle trame nere, ai servizi segreti, alle bombe e così via. E il cinema d'autore in quegli anni era molto più timido e riservato e non riusciva a padroneggiare quel fenomeno, che invece nel cinema popolare, proprio perché piaceva alla gente che quei fenomeni li conosceva e amava parlarne e discuterne, il cinema popolare ha saputo appunto raccontarli e anche trasportandoli in un'epoca, in situazioni completamente diverse, come appunto il western. Sì. Senti Steve, ecco, quel cinema popolare forniva le basi per quello che poi è stato il cinema d'autore riconosciuto nel mondo di questo paese. Poi dagli inizi degli anni 80 è andato in crisi non solo il cinema d'autore italiano, ma soprattutto e in prima istanza quel cinema popolare. Eh sì, perché è cambiato completamente il mercato, cioè quei film lì venivano fatti perché avevano un immediato rientro da parte delle sale cinematografiche. Con la liberalizzazione dell'etere e con un periodo di trasmissione anche selvaggia senza diritti di film, la concorrenza televisiva ha fatto sì che molte sale chiudessero e quindi a quei film mancasse il loro sbocco naturale. Contemporaneamente, beh, diciamo, sicuramente si è anche un po' esaurita la vena creativa di chi li faceva, e anche i mercati esteri sono stati molto meno ricettivi di quanto avvenisse prima. Io credo che tutti quelli che guardano, non so, un film con Cuciglio, il personaggio che Thomas Miglia interpretava in western, o vedono un poliziesco magari con lo stesso Thomas Miglia piuttosto che con Franco Nero, con Maurizio Merri, oppure un horror di quelli bellissimi come Riccardo Freda, se li guarda adesso delle tracce di quello che veniva all'epoca. Allora, ti abbiamo perso dopo Thomas Millian. No, dicevo che Thomas Millian come Cuciglio, come Monnezza, oppure gli horror che facevano Freda, Bava, Margheriti e così via, e se uno li vede adesso capisce perfettamente che cosa stava succedendo nell'Italia dell'epoca. Se invece guarda un film d'autore, forse ha un'immagine molto più opaca, più offuscata di quello che succede. Sì. Erano film veramente immediati. Io ho cercato nel mio documentario di farli raccontare da quelli che li facevano, da Enzo G. Castellari, da Umberto Lenzi, da Mario Caiano, e anche da attori come Franco Nero, Barbara Boucher, eccetera. E poi ho fatto vedere l'omaggio che Tarantino faceva a questi registi e che ha fatto quando li ha incontrati tutti a Venezia, quando Marco Muller dirigeva la mostra, c'è stata una retrospettiva proprio dedicata al cinema italiano popolare e presieduta dallo stesso Tarantino. Beh, sono omaggi pieni di commozione, di devozione, eccetera, che fanno capire che Tarantino non disconosce quelli che sono stati i suoi maestri, i suoi veri maestri. Steve, oggi sembra prendere piede in Italia non solo il documentario, ma per quanto riguarda i film di genere, anche se con una certa fatica, l'horror sembra che si stia allargando per quanto riguarda gli interessi dei giovani autori. Beh, se uno guarda che cosa fanno quelli che fanno i film che poi mettono in rete oppure le web series eccetera, vede che l'horror è prevalente. L'horror, diciamo, può anche costare molto poco, ci sono esempi illustri, no? Per dire, anche uscire dall'Italia, La notte dei morti viventi, che è un film che ha segnato la storia del cinema, è un film che è costato 2 lire, che la gente faceva, gli attori facevano nel weekend perché non erano professionisti, quindi durante la settimana lavoravano. Insomma, ci sono tante molle che spingono a lavorare sul cinema dell'orrore. Poi anche un cinema internazionale, perché un cinema che, diciamo, l'orrore è uguale qui, nelle Filippine, in Canada, in Australia, cioè non c'è una geografia esatta per l'horror. Quindi è chiaro che, diciamo, per quanto riguarda l'approccio al genere, chi oggi fa dei film, diciamo, a basso costo, usando per farli vedere la rete eccetera, quasi sempre attinge all'horror. L'horror è un patrimonio che in Italia incomincia nel 57, prima non ce n'erano tracce, però si è radicato, e l'horror italiano è diverso dagli altri horror perché ha un tasso di perversione, di racconto di situazioni scabrose eccetera, che negli altri horror non era così presente. Senti, per tornare ai tarantiniani, come sarà fruibile questo documentario che hai realizzato? Dunque, allora, lo ha trasmesso Rai Movie, e quindi uno, se va sul podcast, sul sito di Rai Movie, credo che possa vederlo. Ha vinto un Nastro d'Argento come miglior documentario sul cinema, cosa che ci ha molto onorato me e Maurizio Tedesco, che siamo gli autori. Credo che lo si possa chiedere alla produzione, che è la Bayres, a sede in via Costabella a Roma, e credo che lo commercializzi. Poi, insomma, credo che loro stiano trattando, forse hanno già concluso, non lo so, un accordo di distribuzione con l'Istituto Luce. Bene, Steve, io è stato un piacere, ci sentiamo presto, t'abbraccio. Grazie, saluti, viva Tarantino. Ciao, a presto. Steve Della Casa, regista del documentario I Tarantiniani. Oh, parliamo adesso di Asiatica, alla 15ª edizione Incontri con il Cinema Asiatico, qui a Roma da domani 26 settembre fino al 4 ottobre. Ne parliamo con il direttore Italo Spinelli. Ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa, Italo. Salve, ciao, ciao. Allora, 15ª edizione, le caratteristiche intanto di base di Asiatica. Le caratteristiche di Asiatica sono appunto un festival che si muove in quell'area del mondo, e avremo una cinquantina di lungometraggi e poi documentari, cortometraggi, e il focus sarà sull'Indonesia, che ogni anno c'è un focus in particolare su un paese asiatico. È, diciamo, una manifestazione a carattere più interdisciplinare, nel senso che poi degli incontri al di là dei film, o meglio, per meglio intendere in che modo si colloca collocano poi una certa cinematografia rispetto ad altre, e quindi ci sono anche incontri stati con premi Nobel piuttosto che economisti, e quest'anno l'ospite relativo all'Indonesia, Erick Thohir, che è uno dei personaggi chiave un po' dell'economia indonesiana, in Italia conosciuto per il fatto di essere presidente dell'Inter, ma è anche produttore cinematografico, quindi in questa veste anche ci sarà un incontro sabato mattina al Macro, che è il luogo dell'apertura, come dicevi, di domani. Ma anche la letteratura è parte di questo progetto di Asiatico ormai da 15 anni, e avremo la scrittrice Jhumpa Lahiri. Mm-hmm. I paesi di provenienza dei film sono dalla Birmania alla Cina, all'India, all'Iran, alla Mongolia, Taiwan, Thailandia, molti paesi. Mm-hmm. Italo, dicevi, ecco, che anche la letteratura fa parte da sempre di Asiatica. Sì. E a questo punto ti chiedo, in questi 15 anni, oltre alla continuità per la letteratura, per l'appunto, come dicevamo prima, come si è sviluppato, quali caratteristiche ha preso il festival, che tipo di sviluppo ha avuto? Appunto, la manifestazione ha avuto una crescita nel corso degli anni, cambiando anche un po' di location rispetto al Palazzo d'Esposizione all'inizio, poi l'Ambra Iovinelli. Sono state veramente molte le location, anche vari cinema di Roma, e quest'anno appunto l'idea era di questi due poli, in qualche modo un museo, una presenza, diciamo, di un cinema particolare all'interno di un museo, in qualche modo l'idea è che il fruitore di una mostra d'arte in qualche modo è anche vicino ad essere spettatore di un cinema di qualità d'autore che proviene da quei paesi. Dall'altra parte invece siamo alla Garbatella, che è un quartiere popolare storico di Roma, quindi al Palladium e all'Ambra, alla Garbatella, quindi per una diffusione non dico diversa, ma insomma un radicamento come c'era stato negli anni scorsi a Testaccio. Ora siamo alla Garbatella, appunto, in luoghi storici, ma in qualche modo con incontri con gli autori. Si svolgerà sostanzialmente alla Garbatella, con vari sì. momenti e varie manifestazioni all'interno del quartiere. Mm-hmm. Dicevi di alcuni incontri, ecco, ci sono previsti gli incontri con gli autori delle opere che proporrete? Certo, gli autori, appunto, come dicevo, dall'Iran, dalla Cina, di nuovo dall'Indonesia, molti saranno gli ospiti, che sono questo focus, appunto, a un paio di film, diciamo, storici, in collaborazione con la Cineteca di Bologna, che è una delle grandi vere eccellenze italiane nel mondo, e dal loro festival Il Cinema Ritrovato. Abbiamo avuto delle copie degli anni 50 di film indonesiani, e poi si sviluppa invece sulla nuova generazione, che ha come startup Garin Nugroho, che è ormai considerato, diciamo, il padre della New Wave non solo indonesiana ma anche di tutto il sud-est asiatico, e poi la nuovissima generazione, che in parte si è affermata tra Berlino, Cannes, piuttosto che Rotterdam e altri festival internazionali. Mm-hmm. Scusami. Sì, vai. No, dicevo appunto che poi ci saranno invece molti ospiti dei film in concorso, da Rajat Kapoor, che oltre ad essere un regista da ormai 4-5 anni, è uno degli attori chiave del nuovo cinema indiano, e che appunto presenterà la sua opera Before My Eyes, e che accompagnerà il film. ci sono veramente, gli ospiti sono tanti. Poi per i documentari Naïd Razadei sarà l'ospite del festival, che racconta un po' le scelte private, professionali delle documentari, di 7 documentariste iraniane in professione documentaries. E poi avremo questo I'm Not Angry ancora dall'Iran, film molto forte, è una cinematografia che ormai il pubblico italiano conosce, apprezza, e sarà accompagnata dal regista Reza Dormishan e dal protagonista maschile. Quindi avremo anche, appunto, dall'Iran anche un altro documentario che è 70, veramente è un programma vasto. E in questo senso dicevo che ha questo interdisciplinare per offrire un po' a Roma di più. Insieme al cinema ci sarà una mostra d'arte che inaugura appunto domani al Macro, che è Shout, che è una mostra d'arte contemporanea di giovani artisti indonesiani. Poi ci sarà appunto dialoghi, incontri, c'è Ice Poison, che è un film molto, anche molto significativo, che viene da un regista taiwanese, che è Midi Zeta, e che di fatto racconta la Birmania, è una storia al confine appunto della Birmania. Ancora ci saranno film appunto dalla Mongolia, come Remote Control, Seven Flower, cui verrà la protagonista, l'attrice, sarà ospite del festival, Mai Mandala, che viene da Taiwan ancora. E nei documentari sempre questa attenzione anche all'Afghanistan, con Play With Fire, una storia di come le giovani ragazze affrontano il desiderio di diventare attrici in Afghanistan, spesso purtroppo a rischio della vita. Ci sono documentari dal Libano, Sweet Home, con ospiti che accompagnano il film. Poi c'è l'ultimo documentario di un grande artista cinese, che è Ai Weiwei, che sarà appunto presentato, anche questo filmato al Macro, prima di spostarsi tutti, diciamo, in qualche modo alla Garbatella, che sarà una, è un documentario che racconta le vicende dell'artista dal suo arresto nel marzo del 2011 fino al suo rilascio nel 2013, tenendo conto che appunto è un artista che ancora non ha nelle sue mani il passaporto, cioè non può uscire, come tanti altri dei nostri autori, purtroppo. Cioè, in questo scenario, diciamo, di guerra, in cui l'Italia è sempre più sfortunatamente presente, lo slogan, il motto di Asiatica poi è Make Movie No War, che è sempre stato da 15 anni il nostro motto, e mi sembra che oggi più che mai, in qualche modo, una riflessione su ciò che accade, su come tema l'aspetto anche dello sradicamento che stiamo vivendo, in particolare, diciamo, in Asia, le trasformazioni che stanno avvenendo, che sono profonde, grandi, in tutti i sensi, dico in tutti i sensi, cioè perché appunto per quanto riguarda il Medio Oriente c'è una situazione di nuovo assetto e di sradicamento, però d'altra parte l'Indonesia per esempio è un paese che appunto, come sappiamo, di 250 milioni di abitanti, a maggioranza musulmana, in cui c'è un tasso, diciamo, di fiducia nello sviluppo, in particolare economico, secondo solo all'India. Quindi è un continente che in qualche modo guarda al futuro, dall'altro fa i conti con un presente conflittuale, ecco. Sì, sì. Senti Italo, in chiusura diamo i riferimenti internet per la programmazione? Sì, i riferimenti internet sono asiatica.international, questo è il riferimento, e Facebook Asiatica Film Mediale. Okay. E l'appuntamento è appunto da domani tra il Museo del Macro e la Garbatella. Un abbraccio, alla prossima. Anche a te. Ciao, grazie Italo. Infinite, ciao. Italo Spinelli, direttore della 15ª edizione di Asiatica, incontri con il cinema Asiatica, qui a Roma dal 26 settembre al 4 ottobre. Ben ritrovato Giovanni Cioni, regista del documentario Per Ulisse, che sarà qui a Roma. Presente anche lo stesso Giovanni al nuovo Cinema Aquila oggi giovedì 25 settembre. Giovanni, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie di accogliermi di nuovo. Ci eravamo sentiti lo scorso anno in occasione della tua presenza al Festival dei Popoli a Firenze, che hai poi vinto con il tuo documentario, e torni a Roma al Cinema Aquila, dove ti eri aggiudicato invece l'edizione di quest'anno di Contest. Esatto. Allora, per chi ci ascolta, Per Ulisse, di cosa si tratta? Per Ulisse lo si può raccontare in tanti modi. È un viaggio, che ho fatto in un centro di socializzazione a Firenze, frequentato da persone che hanno conosciuto le traversie e tempeste nella vita, chi è stato in carcere, chi si è ritrovato per strada, chi in ospedale psichiatrico, chi ad attraversare la tossicodipendenza. E ero stato invitato lì qualche anno fa da Stefano Sarri, che era il suo fondatore, e ho avuto voglia di fare un film con loro. Ma non un documentario che descrivesse la vita del centro, volevo proprio fare un film che raccontasse il viaggio. Per questo parlo di Ulisse, no? Sì. Parlo di via. Sì. E ho proposto, appunto, di partire dalla storia di Ulisse, che poteva essere creare come una risonanza con i loro vissuti, perché Ulisse è colui che è scomparso, che non torna, che quando torna torna nascosto. È colui che fa il viaggio nel paese dei morti, e cioè, è soprattutto colui che si racconta, perché le vicissitudini dell'Odissea d'Ulisse sono raccontate da Ulisse stesso in prima persona. Era un naufrago, non si sapeva chi fosse, e lui si racconta. Dunque, prendendo spunto da questo, abbiamo costruito il film come una specie di, poi alla fine come anche una specie di work in progress, nel senso che ho cominciato delle prime prove di Ulisse, e poi questo l'ho montato, l'ho mostrato, e siamo andati avanti così. Per me era importante questa dimensione qui, cioè certo è un documentario fondamentalmente, perché è cinema del reale, perché sono storie vere, perché sono persone vere nella loro, però è soprattutto per me cinema. Sì. Nel senso che nel cinema c'è il racconto, c'è questa dimensione qui che se la riducevo, no, a descrizione della vita, eccetera, descrizione di perché, come le persone sono arrivate qui, entravo in un'altra dimensione, mentre qui volevo entrare proprio in una dimensione, cioè del viaggio che ognuno ha fatto. Sì. E poi che possiamo condividere. E poi si tratta comunque di una serie di ritratti di fronte, certo, alla videocamera, e con delle conversazioni. Ho avuto modo di vederlo la scorsa sera, e tanto ti faccio i complimenti, e hai realizzato, grazie, comunque anche una sorta di conversazione con loro. Certo, certo. Ho iniziato una conversazione, ma che non era un'intervista, sì, nel senso in cui io non ho mai fatto domande su perché sei qui, perché, che cosa ti è successo. Se me le raccontavano, bene. Io ho passato molto tempo, prima di cominciare a riprendere, ho passato molto tempo semplicemente a giocare a carte, a stare lì, a raccontare io quello che facevo, no? Sì. Cioè a creare più uno scambio, una confidenza, che non, perché non mi volevo mettere nello sguardo di qualcuno che viene da fuori, che dice: bene, raccontami che cosa ti è successo. Capito? Volevo evitare questo sguardo al quale spesso sono confrontati, perché è lo sguardo degli assistenti sociali, dello psichiatra, del giudice, e non volevo questo, volevo qualcosa che fosse, che fosse, ecco, come una specie di spazio comune, no, di percorso che si fa insieme. E per me è importante perché sono persone con le quali che io continuo a frequentare, ormai sono 6 anni da quando ho cominciato sì, il progetto. Sono molte delle persone, sono veramente amici cari, persone a cui mi sento vicino, no? E indipendentemente dal fatto che stiamo già pensando ad altri progetti che si faranno lì, però per me è importante questo rapporto. Sì. Di questo rapporto quasi dall'interno. Una curiosità, Giovanni, rispetto alla struttura che li ospita, quali sono a tuo avviso gli elementi qualificanti di questa struttura e che la rendono umana? Innanzitutto la diversità. Io penso che l'intuizione, la grande intuizione di Stefano, che qui devo salutare perché purtroppo è scomparso a maggio scorso. Comunque la sua grande intuizione era quella di creare uno spazio che fosse aperto, cioè nel senso in cui lui invitava persone con diciamo percorsi diversi. Non era un centro per tossicodipendenti oppure un centro per persone che hanno problemi psichiatrici, ha invitato via via persone molto diverse tra loro e che nella diversità si confrontano, perché sennò ti rinchiudi, no? Sempre nello stesso universo. Sì. Non è un centro di residenza, è un centro di socializzazione, questo è importante. Mm-hmm. Cioè molti di loro passano la giornata lì, poi la sera c'è chi torna a casa sua, chi torna all'albergo popolare, chi dove può dormire, alcuni la sera tornavano per andare a dormire sotto ponti. Mm-hmm. Altri tornano in carcere perché hanno l'orario, hanno il rientro in carcere, perché sono, cioè c'erano casistiche diverse. Dunque è un luogo dove andavi anche volontariamente, non è un centro dove le persone sono internate, confinate. Certo, ecco. Certo. E poi penso anche il fatto di creare una situazione di, che chiamerei anche di ironia. Cioè tu pensa che quando Stefano mi invitò, era settembre del 2006, avevo organizzato qualcosa che si chiamava un festival del disagio, che era bellissimo, avevamo fatto una specie di provino sul tema chi sta peggio di me. Cioè ognuno doveva raccontare chi stava peggio di lui. Se stesso. E questo per dare un po' la dimensione del fatto, cioè, che non è tanto sdrammatizzare per sdrammatizzare, ma per creare anche un altro sguardo, no, sul proprio destino, perché poi ognuno è solo nella sua storia. Dunque l'importante è riuscire a parlarne e riuscire a condividerla e a capire che ci sono anche altre storie. Sì. E penso che questa è una cosa che mi ha molto ispirato anche nel film, che poi è una polifonia di storie, di frammenti di storie, però non so tutto, non racconto tutto e non voglio nemmeno raccontare di loro. Giovanni, stasera tu sarai presente alla proiezione, volevo chiederti anche come è fruibile al di là di questa data romana il tuo documentario per Ulisse? Beh, innanzitutto il film sta al Nuovo Cinema Aquila fino al 1° ottobre. Benissimo. Se non di più, però insomma questo dipende da. Dunque è fruibile durante 5-6 giorni al Cinema Aquila. Dunque per chi sta a Roma. Il film continua a circolare in giro in vari festival. Ora sono appena stato a Berlino, ci sarà di nuovo una proiezione a Firenze, perché era già uscito a Firenze a febbraio scorso. Poi niente, bisogna tenersi aggiornati. C'è una pagina Facebook, una pagina del film. Benissimo. Per cui uno lì può vedere quando ci sono proiezioni a giro. Benissimo. Però intanto approfittiamo del fatto che il Cinema Aquila ha dato la possibilità di passare il film durante una settimana, e che non è poco. Eh no. Benissimo, allora ricordiamo da questa sera, in cui sarai presente anche tu, al Nuovo Cinema Aquila qui a Roma. Io ti abbraccio. C'è anche la montatrice del film per la discussione, sarà interessante. Bene. Alina Rouvé. Giovanni, ti ringrazio, un abbraccio e alla prossima. Ti ringrazio, sì, e a stasera. Ciao. Ciao. Giovanni Cioni, regista del documentario Per Ulisse, da stasera al Nuovo Cinema Aquila, qui a Roma. Allora, siamo in diretta con Giulio Manfredonia, regista del film La Nostra Terra, uscito in sala lo scorso giovedì 18 settembre. Giulio, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao a tutti. Allora, La Nostra Terra, intanto ti chiedo subito com'è andata questa prima settimana di programmazione. Ma è andata abbastanza bene, mi pare che il pubblico si diverte, le sale sono, insomma, escono soddisfatti. Non sono tantissimi perché è un tipo di cinema che ha bisogno di un po' di rodaggio, ha bisogno di un po' di passaparola, però siamo fiduciosi. Senti, come lo racconteresti in breve a chi ci ascolta? Ma è il racconto di una strana antimafia fatta senza pistole ma con le zappe, coltivando pomodori e indicando una via alternativa, e quindi è un dire pragmatico che io trovo sempre molto divertente e interessante. Senti Giulio, com'è nata l'idea del film? Ma guarda, è nata un po', diciamo, all'indomani della fine di Si può fare, il mondo della cooperazione che ci ha dato una gran mano a fare il film, ci ha raccontato varie storie, tra cui c'era quella delle cooperative appunto sui beni confiscati. Lì abbiamo cominciato un po' a incuriosirci di questo Si può fare del Sud e Si può fare agricolo, quindi quest'idea di un mondo sempre di cooperazione ma in territori un po' di confine, no? Dove il confine tra lo Stato e il potere dello Stato e il potere della mafia è sottile, no? E abbiamo cominciato con Fabio Bonifaci, con il quale io ho scritto sia Si può fare che questo film qui, a informarci, a documentarci, quindi abbiamo fatto un po' di giri, siamo andati a Casal di Principe dove stava nascendo la prima cooperativa sui beni confiscati, poi a San Giuseppe Jato, che un paesino vicino Corleone, dove c'è la prima cooperativa di Libera, la Placido Rizzotto, che è una cooperativa, che è un'importante azienda agricola del sud ormai. E insomma, facendo questi giri abbiamo incontrato persone, raccolto storie, e ci è sembrato che c'erano tutte quelle cose che ci divertono a noi, cioè una serie di strane vicende che evidenziano delle contraddizioni del nostro paese, che sono nello stesso tempo buffe e inquietanti, per cui ci divertiva questa strana antimafia così fatta da gente che ci si trova anche solo alla ricerca di un lavoro, di un'occupazione, no? Sì. L'occasione della legge La Torre è quella proprio di proporre una legge che invece che reprimere propone delle strade alternative. Quindi l'idea di utilizzare un bene del male per poi metterlo nel bene, scusate il gioco di parole abbastanza estremo. Senti, a proposito di contraddizioni, quello che emerge anche rispetto ad altri lavori, soprattutto documentari, che abbiamo avuto modo di sentire sullo stesso tema, è che, tra l'altro li hai anche evidenziati nel tuo film, è rispetto ai beni confiscati, le difficoltà burocratiche che incontrano le cooperative, le minacce ma anche le ritorsioni che spesso subiscono, e anche il rischio a volte che i beni confiscati o rimangono vuoti, inutilizzati, o vengono addirittura riacquistati da società che in qualche modo sono legate ai clan proprietari. Sì, in realtà hai detto tutta una serie di cose che sono i problemi veri di chi nel campo si avventura in questa vicenda, perché intanto la prima cosa che abbiamo raccolto proprio nei nostri giri è questa, come si posso dire, difficoltà farraginosa, che non si capisce mai bene se sia una difficoltà della nostra burocrazia, che diciamo ben conosciamo tutti, o sia una sorta di resistenza che queste cose prendano piede, perché l'iter burocratico è molto complesso, sappiamo che in tutta Italia, ma nel sud in particolare, la burocrazia è una specie di soffocamento di qualsiasi idea, e quindi lì non si capisce mai bene il confine tra queste due cose. Abbiamo trovato beni confiscati che erano stati ristrutturati a spese dello Stato, e tutte le ristrutturazioni erano state fatte male, cioè che ti posso dire, un mozzarellificio piastrellato per cui le mucche scivolavano e cascavano per terra, oppure abbeveratoi troppo alti dove non arrivavano gli animali, cioè errori clamorosi. E quindi un po', e poi l'iter burocratico che diciamo ha un suo, una sua ragione, perché in realtà l'obiettivo è quello di creare delle aziende pulite, per cui evitare le infiltrazioni mafiose è molto molto complicato. Capire chi lo è e chi non lo è molto difficile, per cui le due cose insieme. E poi certamente è una lotta sottile di poteri distinti che convivono sullo stesso territorio, è quasi una guerra civile, per cui molto spesso i problemi delle cooperative sui beni confiscati non sono dei problemi eclatanti, non ci sono omicidi, però ci sono piccoli boicottaggi, si rompe la macchina, il campo va a fuoco, si ammalano le piantagioni, insomma piccoli boicottaggi quotidiani che sono un po' invisibili, perché il problema è quello che si vede e quello che non si vede, cioè la guerra diciamo aperta non c'è, però c'è un continuo quotidiano stillicidio. Sì. Senti Giulio, che tipo di risposte hai avuto dai diretti interessati, chi lavora nelle cooperative che si occupano di beni confiscati? Ma guarda, curiosamente ci si sono riconosciuti più loro di quanto la critica cinematografica abbia riconosciuto il realismo dei racconti, cioè chi l'ha vissuto personalmente ci ha detto: ah, ma quello assomiglia a un nostro collega che fa così, questa storia ci è successa pure a noi, cioè è un po' quello che è successo quando facemmo Si può fare. In realtà chi ci lavora direttamente si è riconosciuto, anche perché le storie che noi raccontiamo, sia pure con un tono lieve, in commedia, per cui con qualche gioco da commedia, sono storie vere, insomma. Le vigne bruciate sono il quotidiano, purtroppo. C'è una famosa vigna pugliese che è stata bruciata durante i mondiali 2006 e poi una volta rinata ha fatto nascere il vino Santa Lucia, che appunto allude alla santa del fuoco, no? E quindi mi pare che loro ci siano stati, ci abbiano creduto. Sai, poi noi siamo stati aiutati direttamente dalle aziende agricole, dalle cooperative, perché tante cose proprio pratiche dell'agricoltura noi non le sapevamo, è stato il loro aiuto a far sì che si potesse fare questo film. Bene. Giulio, io ti ringrazio, un abbraccio e alla prossima. Grazie tanto a voi, andate al cinema e dateci una mano. Ok, ciao. Grazie. Giulio Manfredonia, regista del film La nostra terra, uscito in sala lo scorso giovedì 18 settembre. In collegamento con Claudia Marelli, regista del documentario Emmaus. Claudia, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, grazie. Allora, Emmaus, mi interessava molto l'argomento del tuo documentario. Allora, per chi ci ascolta, raccontiamo di cosa si tratta. Emmaus è un documentario che ho girato in una casa di cura per le dipendenze patologiche ad Iglesias, in Sardegna. Che Iglesias e Sulcis Iglesiente è una delle zone più depresse della Sardegna, soprattutto dopo la chiusura delle miniere. In questa comunità di recupero ci sono una quarantina di uomini che stanno lì da chi un anno e mezzo, chi due anni, in un percorso terapeutico. Il film è ambientato lì, ma in realtà non racconta della comunità, del suo funzionamento, della tossicodipendenza come problema sociale. In realtà racconta le storie di tre uomini che io ho conosciuto quasi per caso, e del mio rapporto con loro, della complicità che si è creata tra me e loro, e quindi è diciamo un racconto molto molto personale, molto intimo, non è un documentario di tipo sociale, e forse non è neanche giusto definirlo un documentario, perché non ci sono le classiche interviste, non c'è la voce narrante, ci sono scambi di camera, momenti in cui sono loro a filmare me, quindi il punto di vista cambia continuamente. Insomma, è proprio un incontro. Tra l'altro Emmaus è il nome della comunità, ma è anche un passo del Vangelo in cui gli apostoli, dopo la morte di Cristo, due apostoli stanno camminando in una strada verso questa cittadina della Palestina, si chiama appunto Emmaus, incontrano un viandante, lo invitano a cena e durante la cena si accorgono che in realtà è Gesù che è risorto. E quindi mi è piaciuto tenere questo titolo, questo nome biblico, anche perché proprio simboleggia l'incontro e il riconoscimento tra persone che inizialmente non si riconoscevano. E per me un po' è stato così l'incontro con queste persone. E com'è nata l'esigenza, anche la voglia di filmare questo incontro? È nata perché una mia cara amica lavora in questa comunità e da anni mi parlava delle persone che sono lì, soprattutto di uno di loro che purtroppo per lui è lì da tanto tempo, da 3-4 anni, 3 anni e mezzo. E quindi mi aveva incuriosito, soprattutto mi aveva incuriosito perché lei parlava con un amore di queste persone, un trasporto del suo lavoro, mi è venuta voglia di conoscerle. Quindi le ho chiesto se potevo andare lì a conoscerle, immediatamente quando ho conosciuto Antonello, che è uno dei tre protagonisti del film, il ragazzo più giovane, è scattato qualcosa, c'è stato un riconoscimento in qualche modo. E quindi ho proposto, e poi ho conosciuto anche gli altri ragazzi, e ho proposto, mi è venuto in mente di provare a girare un film con loro più che su di loro, quindi gliel'ho proposto, e con quelli che si sono detti disponibili abbiamo iniziato a fare riprese. Io sono stata lì per 6 mesi, ho dormito là nella comunità, ho vissuto là con loro, ho girato tantissime ore, ma la maggior parte del tempo in realtà neanche filmavo, stavo proprio con loro a passeggiare, chiacchierare, aiutarli nei lavori. Ecco, dicevi 40 persone ospitate in questa comunità, e volevo chiederti anche com'è la situazione oggi dopo la chiusura delle miniere nel sud-ovest della Sardegna. È molto molto depressa, perché ovviamente le miniere davano tanto lavoro, quindi adesso c'è una situazione di grande disoccupazione e quindi di malessere, ovviamente anche tanto di droga. Poi vabbè, sta tornando molto, soprattutto il problema dell'eroina, della cocaina, un po' ovunque, insomma, non soltanto nelle zone particolarmente depresse, però ovviamente sono anche collegate le due cose. Si sono riconosciuti nel tuo documentario, visto che hanno contribuito anche alla realizzazione? Sì, purtroppo, diciamo, dei tre protagonisti soltanto uno di loro l'ha potuto vedere, perché uno è uscito dalla comunità e purtroppo è tornato in strada, ha ripreso a fare uso di droga e non sono riuscita a contattarlo. Il ragazzo più giovane, che è quasi il protagonista principale, diciamo, con cui sono sempre in contatto nonostante sia passato un anno e mezzo dalla fine delle riprese, e ci scriviamo ogni volta che vado in Sardegna, lo vedo, non ha voluto vedere il film, però lui sta abbastanza male. E poi il film, purtroppo, quello che mostra non è un film affatto consolatorio, è un film abbastanza duro, e quello che mostra è anche il loro, cioè quello che loro hanno voluto mostrare di sé, il loro malessere, il loro vuoto. Questo ragazzo comunque da anni che fa una vita che non si potrebbe neanche definire vita, non ha una vita sociale, non ha un lavoro, sta lì in questa comunità a ciondolare dalla mattina alla sera, non è neanche all'interno di un percorso di recupero, perché è una situazione grave, anche non ha solo problemi di droga, quindi probabilmente non voleva rivedersi sapendo quello che avrebbe visto. Mm-hmm. L'unico invece che il ragazzo dei tre protagonisti che ha visto il film era molto molto commosso, gli è piaciuto molto e sì, era contento, è stato anche alla presentazione del film a Cagliari con me, ha parlato col pubblico, era colpito, tra l'altro c'è anche la sua famiglia perché c'è una scena in cui io lo accompagno a trovare i genitori e lui in parte filma la sua famiglia, io filmo la sua famiglia e quindi era anche molto molto commosso da rivedere i parenti nel film. E poi gli altri ragazzi invece che magari sono meno nel film che l'hanno visto, comunque a tutti in linea di massima è piaciuto, anche perché si sono riconosciuti. Mm-hmm. Hanno trovato che io abbia colto la loro sofferenza, il loro senso di stare in quel posto abbastanza bene, almeno questo è quello che mi hanno detto. Mm-mm. Senti, è stato al Torino Film Festival, immagino che abbia seguito anche altri percorsi festivalieri, volevo chiederti come e se sarà fruibile il tuo documentario Emmaus. Allora, è stato al Torino Film Festival, è stato a Istanbul, è stato a San Giovanni Valdarno, in Toscana, dove ha vinto anche un premio, insomma, adesso è stato a Trieste, al Festival di Mille Occhi Sergio Germani, che è appena finito, e adesso tra poco si potrà vedere anche, lo metterò insomma online su internet, per ora ancora non si può vedere, ma a brevissimo sarà possibile vederlo, anche perché ovviamente è un film completamente autoprodotto, e anzi direi non prodotto, nel senso non c'è una produzione. Sì. E non si pone neanche come prodotto nel senso commerciale del termine, ed non ha una distribuzione, è fatto con mezzi senza soldi, ma anche con mezzi tecnici molto limitati, anche per scelta, nel senso che avere solo una piccola videocamera con me ed essere da sola a fare le riprese mi ha permesso molta libertà, neanche di instaurare con loro un rapporto di complicità, di non essere invasiva. Se avessi avuto una troupe non avrei mai potuto filmare quello che ho filmato, insomma. Mm-hmm. I rapporti con le persone sarebbero stati completamente diversi e filtrati dal mezzo tecnico. Quindi però è un film che non sicuramente non uscirà in DVD, ho fatto qualche proiezione a Roma così, quindi insomma internet sarà l'unico modo di vederlo. Bene, allora aspettiamo notizie. Claudia, io ti ringrazio, un abbraccio. Grazie e alla prossima. Ciao, ciao, grazie. Ciao. Claudia Amarelli, regista del documentario Emmaus. Bene, ritroviamo Gabriele Salvatores, regista del film Italy in a Day, un giorno da italiani, che sarà in programmazione su Rai 3 sabato 27 settembre. Gabriele, ben ritrovato. Ciao, ciao a tutti, buongiorno. Tutto bene? Tutto molto bene. In questo momento sto parlando proprio con i produttori di Italy in a Day, che sono Indiana, li conoscete, e stavamo proprio parlando di possibilità di continuare su questo progetto e su questa linea. Allora, un progetto piuttosto mastodontico e racconta un po' come è partito il tutto e come si è sviluppato. Sì. Ma in particolare un signore che si chiama Lorenzo Gamperos, che lavora con Indiana, ha seguito la nascita di questo progetto che qualche anno fa Ridley Scott aveva inventato per gli Stati Uniti. Allora si chiamava Life in a Day e il suo lavoro era posto tutto il mondo, l'idea di far mandare alle persone un video, qualsiasi video girato con qualsiasi mezzo, telefonini, telecamere, macchine fotografiche, eccetera, sulla giornata, su una giornata fissa. Noi abbiamo ripreso questa idea per l'Italia e alla nostra giornata, il nostro filming day, come lo chiamavamo, era il 26 ottobre. Il 26 ottobre dell'anno scorso abbiamo chiesto agli italiani di mandarci qualsiasi cosa che gli poteva riguardare, che poteva riguardare la loro vita, che gli capitava quel giorno: la nascita di un figlio, una passeggiata con il loro cane, ma semplicemente quello che vedevano dalla finestra, una riflessione sulla vita, sulla morte, quello che gli veniva, le cose che avevano paura o le cose che amavano. Abbiamo ricevuto 45.000 video, quindi ti lascio immaginare la quantità di ore di filmati che abbiamo dovuto visionare, e da questi 45.000 video pian piano siamo riusciti a raccontare una giornata da mezzanotte a mezzanotte in Italia. Il discorso però si allarga poi anche a una riflessione in generale sulla vita, sui valori delle cose, e naturalmente, visto che, come si diceva negli anni 70 e ne sono sempre più convinto, il privato è politico, anche una carezza a tua moglie o alla tua compagna, uno sguardo a tuo figlio diventa socialmente interessante, soprattutto oggi. Mm-hmm. Quindi il tentativo di coniugare la cultura partecipativa, diciamo, di internet con lo sguardo di chi questo lavoro lo fa da un po' di tempo e quindi è abituato a organizzare le cose. Sei stato molto esaustivo. Senti, volevo chiederti, ecco, quali sono stati i criteri su cui avete lavorato rispetto all'enorme quantità di materiale? Certo. Ovviamente una prima parte è stata scremata sulla base dei problemi tecnici, perché ovviamente non tutti i filmati che abbiamo ricevuto hanno la qualità sufficiente tecnica per essere usati, ma poi subito dopo abbiamo diviso le cose a secondo di temi. Ti faccio un esempio: l'amore, i figli, la paura, il lavoro, la mancanza di prospettive sul futuro. E sulla base di questi temi pian piano abbiamo scartato tutte le cose che sembravano un po' troppo, preso una parola che non mi piace ma che è facile capire, troppo selfie, troppo autoreferenziali, per cercare di individuare quelle più sincere. E pian piano ci siamo riusciti ad arrivare al cuore della vicenda, ed effettivamente anche il film è divertente, ma è anche in certi momenti anche sinceramente commovente. Ecco, a proposito di cuore, che spirito emerge in generale da questa grande comunità che è rappresentata italiana? Beh, bisogna fare una premessa, ovviamente 45.000 video sono tanti, ma non sono l'Italia, nel senso, certo, che sono una parte d'Italia, anche perché poi sono persone che hanno deciso di farsi di perdere un po' di tempo e dare un po' di della loro disponibilità di vita a questa cosa, quindi non posso dire che sia un campione credibile d'Italia, però l'Italia che emerge da questi 45.000 video è un'Italia sicuramente sofferente, sicuramente ferita, ma che in qualche modo, non so come posso dire, soffre con dignità, ecco, o perlomeno non rinuncia ad avere qualche desiderio, che non è il possesso del telefonino ultimo modello, di un'auto, di cose del genere, qualche desiderio alto. E questo secondo me è importante, perché se non hai desideri vuol dire che non vedi più il futuro, vuol dire che non vedi più la vita, e invece una porta aperta verso la vita, questa Italia che abbiamo visto da questi 45.000 video la tiene, e quindi questo mi ha in qualche modo anche, e poi sono persone che parlano di cose serie, non banali, certo, la protesta sociale, la rabbia sociale è molto ben mostrata quando le trasmissioni politiche, per esempio della Samarcanda o la trasmissione della Gabanelli o cosa, vengono mostrate in quella maniera lì, o anche semplicemente su internet. Qui avevamo chiesto di parlare di cose più intime, ma come ti dicevo prima, la forza di questo film sta proprio nel fatto che tu vedi i problemi e i sogni della gente e chiaramente li confronti con la realtà, anche alla difficoltà di vivere e di sbarcare in un'area ogni giorno. Quindi, quindi secondo me è un'Italia positiva, meglio di quello che mi aspettavo, vai, diciamola così. Senti, domenica tu sarai all'arena di Piazza San Cosimato a Trastevere, realizzata dai giovani e dalle giovani ex occupanti del cinema America. Presenterai un film a sorpresa. Volevo chiederti anche cosa pensi rispetto a questa esperienza, calcolando che sono giovani dai 14 ai 22 anni, un'esperienza giovanissima che ha avuto il supporto anche del comitato di quartiere, che gli ha dato in comodato d'uso il forno accanto alla sala cinematografica. Sì, qui devo ringraziare ancora una volta Indiana, che si è resa disponibile, ha facilitato questa, cioè i produttori, che ha facilitato questa operazione, per cui siamo riusciti in qualche modo più o meno non so come dire, rispettando i contratti, così insomma, però a fare ridono qui da davvero Olmo. Sì, è vero, qua più o meno però, insomma, abbiamo portato via un DVD che possiamo mostrare quella sera lì, e sono molto contento di questo, perché è una maniera anche per ringraziare le persone che ci hanno mandato i video. È un'iniziativa per qualche verso diciamo popolare o comunque partecipativa, che ritorna alle persone al di là degli schemi distributivi tradizionali. In particolare sul discorso del cinema America, io faccio il cinema e non posso che essere assolutamente solidale con loro, perché vedi, le vecchie sale di quartiere, la monosala, credo che debba rimanere, va benissimo il cineplex, ma insieme a questo secondo me deve sopravvivere quello che una volta la sala dove tu magari andavi a vedere quel film non tanto perché sapevi di che cosa parlava quel film, ma perché ti fidavi del fatto che quella sala sceglieva dei film buoni. Questo si sta perdendo un po' dappertutto, ma bisogna provare a recuperarlo. Gabriele, ci vediamo domenica in piazza, allora. Molto bene, allora a domenica. Un abbraccio. Ciao. Un abbraccio a voi, grazie, ciao. Bene, questo era Gabriele Salvatores, regista del film Italy in a Day, un giorno da italiani, in programma su Rai 3 sabato 27 settembre e poi domenica 28 a Piazza San Cosimato, qui a Trastevere, alle 21:30, la presenza dello stesso Salvatores. Roberto Proia di Notorious Pictures sulla distribuzione del film Posh, in uscita in sala oggi, giovedì 25 settembre. Roberto, ben ritrovato su queste frequenze. Grazie di avermi di nuovo. Ciao a tutti. Allora, raccontiamo in breve la storia di questo Posh per chi ci ascolta. Allora, Posh è un film particolare, nel senso ha come protagonisti tre astri nascenti della Hollywood giovane, insomma, quindi sono Sam Claflin di Hunger Games, Max Irons, figlio di Jeremy Irons, The Host, e Douglas Booth di Romeo e Giulietta. Ecco, questi tre bad boys praticamente nel film sono dei ragazzi posh, cioè comunque un pochino snob, un po' altezzosi, perché sono nati comunque nobili o comunque molto molto ricchi, frequentano Oxford e in un'università che poi forgerà i leader del futuro, quindi si sentono un po', come si direbbe a Roma, se la sentono un po' calda. Ecco, questo loro modo di fare, finché si tratta di fare scherzi al prossimo e comunque passarla liscia, è un conto. Una sera purtroppo spingeranno troppo oltre e quindi, grazie al loro status, cercheranno comunque di avere l'impunità da un crimine che hanno commesso. Ecco, quello che fa impressione intanto è che si tratta della, come vengono definiti nello stesso film, della upper class, quindi della futura classe dirigente in quel caso, esatto, dell'Inghilterra, ma insomma è un fenomeno che si può anche allargare a molti paesi. E fa impressione la loro strafottenza e rancore di classe verso tutti gli altri. Sì, nel senso che c'è una frase in cui dicono che loro sono stanchi della gente povera. Chiaramente questa è una frase orrenda da condannare, ma è il sentimento di queste persone che sono comunque nate fortunate e ricche e pensano veramente di potersele cavare in qualsiasi situazione pagando, perché comunque soldi ne hanno in quantità. Chiaramente questa qui è una forte denuncia di questo tipo di atteggiamento, ma nel film diciamo questi tre personaggi sono sicuramente affascinanti, quindi c'è anche un gioco con lo spettatore che da un lato li condanna, dall'altro però ne è affascinato. Quello che poi alla fine li rende immuni è da una parte l'appartenenza a un clan, perché poi alla fine questa piccola elite ristretta che ha una lunga tradizione va difesa, tutela i propri membri e difende se stessa in ogni modo. E dall'altra, oltre al clan, c'è la questione, dicevi pure chiaramente anche tu, del denaro, che alla fine è l'arma principale. Sì, poi in realtà la cosa interessante è che questi tre personaggi hanno tutti più o meno una motivazione per essere così delinquenti, tra virgolette. Sì, sicuramente c'è la possibilità di farla franca, ma ognuno ha la sua storia alle spalle che fa sì che prendersela con le persone meno ambienti sia una sorta di rivalsa per delle cose che a loro mancano, quindi così scopriamo che in realtà non hanno tutto, ma gli manca qualcosa. Senti, da oggi nelle sale in quante copie, Posh? 238 copie. Beh, una signora uscita, insomma. Sì. No, in Inghilterra il film è della Universal, quindi è major, quindi insomma abbiamo fatto un'uscita degna, anche perché comunque con la loro venuta a Roma abbiamo capito che c'è un appetito per questo film. Ecco, visto che si parla di Oxford, com'è stata l'accoglienza in Inghilterra? Molto buona, nel senso che comunque hanno fatto un'uscita in cui anche loro sulle 280 copie hanno incassato più o meno 700.000 euro in 3 giorni, e la cosa positiva è la domenica è salito rispetto al sabato. Questo vuol dire che c'è stato un ottimo passaparola, solitamente il contrario. Roberto, io ti ringrazio, alla prossima e ci sentiamo. Grazie a voi. Grazie. Ciao Roberto. Buon lavoro. Roberto Proia di Notorious Pictures sulla distribuzione del film Posh, in uscita in sala oggi giovedì 25 settembre. L'attore Fabrizio Gifuni, in questo caso doppiatore del film Pasolini, in uscita in sala oggi giovedì 25 settembre. Fabrizio, ben ritrovato. Buongiorno, ciao. Allora, ci siamo incontrati in sala per l'anteprima del film, sì, qui a Roma, e ho detto, ma perché non sentire Fabrizio, che a Pasolini ha dedicato uno spettacolo che abbiamo anche trasmesso qui al Radioteatro, è un conoscitore insomma del lavoro e della persona di Pasolini, perché non parlarne con te di questo film? Allora, intanto si tratta dell'ultimo giorno di vita di Pasolini, omaggiato da Abel Ferrara, e ti chiedo subito, che impressione hai avuto dalla visione del film, Fabrizio? Allora, dunque, si tratta intanto di un oggetto abbastanza complesso e sfuggente, fatto che ci sono due edizioni, un'edizione che è stata presentata alla Mostra del Cinema di Venezia, che è l'edizione internazionale, con la voce originale di William Dafoe e diciamo un incrocio di lingue, che il film inizia in francese con una delle ultime interviste che fanno a Pasolini a Parigi durante il montaggio di Salò, prosegue in inglese, ma ci sono anche alcune parti in italiano, perché nell'edizione internazionale Dafoe, quando parla con i ragazzi di Vita, parla così in un italiano suo, diciamo con accento americano, quindi diciamo è un oggetto linguisticamente complesso che Abel, per ragioni sue, ovviamente anche per un convincimento suo, ha preferito mantenere così, anche a costo di creare diciamo, un qualche disorientamento, sì. Diciamo ibridato, un lavoro ibridato, insomma. Esatto, ibridato. Poi c'è la versione italiana, che io in realtà ci siamo incontrati l'altra sera, una piccola anteprima, vorrei rivedere e riascoltare con più calma, forse anche stasera, in una sala più adatta, perché sì, ho avuto qualche problema, diciamo, proprio di ascolto con in quella sala, sì. E che è una versione invece più omogenea, perché è tutta in italiano, in cui sicuramente, diciamo, il fatto di avere un film interamente in italiano, in questo caso essendo un film straniero ma un film su Pasolini, può aiutare maggiormente alla comprensione. Poi forse fatalmente alcune cose invece si perderanno, come sempre, rispetto all'edizione originale. Ma insomma, ecco, intanto per inquadrare, l'oggetto è un oggetto abbastanza complesso anche dal punto di vista linguistico, perché il doppiaggio, che intanto è una cosa che io non faccio mai abitualmente, l'ho fatto soltanto una volta per amicizia, anni fa, per Silvio Soldini, quando aveva fatto Brucia nel vento, è sempre un tradimento. Con Ivan Franek, se non sbaglio. Esatto, sì. Esatto, Ivan Franek. Il doppiaggio è sempre un tradimento, in alcuni casi necessario, in altri meno, c'è una disabitudine all'ascolto dei film in lingua originale, ancora ad italiane, ancora una cosa che passa con difficoltà per la mente degli esercenti. Però in questo caso c'è da dire che è vero che è un film straniero, ma è un film, diciamo, che ha al centro uno dei più grandi poeti italiani, quindi, diciamo, forse la necessità di un'edizione anche italiana era meno, diciamo, meno superflua, sì, del solito. Detto questo, il film, quando io l'ho visto per la prima volta, mi ha piuttosto emozionato, devo dirti. Ho trovato l'idea di raccontare non esattamente l'ultimo giorno, diciamo le ultime 36 ore della vita di Pasolini, fosse un bel punto di vista, anche se ovviamente è un punto di vista che non concede nulla al ritratto del poeta, nel senso che è un film in cui chi non conosce Pasolini può fare qualche fatica, nel senso che non è, anche fortunatamente, un biopic, come sì, non è una biografia, sì. Quindi non ci deve essere nessuna pretesa di esaustività nel racconto del poeta. Mi piaceva l'idea di entrare nella testa. Il film di Abel Ferrara si inizia proprio con un'inquadratura su un pezzo della testa di Pasolini, che è interpretato da William Dafoe, come a suggerire al pubblico un ingresso, no, nella sua testa, no? Vedere che cosa si agita, che cosa si agitava in quelle 36 ore. Sì. Da qui l'idea di mettere in scena, più che mettere in scena, anche qui vedere attraverso la sua testa alcuni frammenti dei due lavori a cui stava appunto lavorando in quei giorni, cioè Petrolio, che poi uscirà incompiuto un po' di anni dopo, nell'edizione di Enzo Siciliano, e la famosa sceneggiatura destinata a Edoardo, Porno Teo Colossal. Quindi l'idea è legata proprio a questa, diciamo, a questo punto di vista, vedere che cosa si agita dentro la sua testa. Io ho trovato che il film, che è un film anche sghembo, storto, è un film molto coraggioso, sincero, in cui probabilmente chi si aspetta da Abel Ferrara l'eccesso e lo scandalo può rimanere deluso, perché Abel Ferrara entra nella vita di Pasolini con un rispetto quasi in punta di piedi, io dico quasi con un rispetto che non avrebbe avuto un friulano, no? Sì, sì. E quindi non ci sono, diciamo, particolari riletture o forzature d'autore, sì, no? Ecco. E questo ne fa un oggetto, secondo me, cinematografico abbastanza affascinante. L'interpretazione di William Dafoe, dal punto di vista fisico, e anche non solo fisico, naturalmente, mimetico, in alcuni momenti mi ha molto impressionato, nella cura dei dettagli. Mi ricordo la cosa che mi è, una delle cose che mi ha emozionato di più, un piccolo dettaglio, una camminata che lui fa di spalle attraversando il soggiorno della sua casa dell'Eur prima di andare a leggere i giornali la mattina, in cui sembra davvero di vedere Pasolini, una specie di piccolo esorcismo a cui credo che abbia contribuito anche il fatto che la ricostruzione degli ambienti e anche dei costumi è molto poco ricostruita, cioè Dafoe indossa molto spesso gli abiti veri di Pasolini che la nipote Ninetto Davoli gli hanno dato, la macchina da scrivere, le agende, gli appunti sono quelli di Pasolini, quindi c'è subito un odore, un profumo di verità, diciamo, sì, no? Sì. Abbastanza impressionante. Io non sapevo che appunto ci fossero tutti questi elementi reali ed ero abbastanza impressionato dalla ricostruzione. E il film, ti ripeto, ci sono molte zone secondo me con delle intuizioni belle, importanti anche dal punto di vista cinematografico, ed è il motivo per cui poi fondamentalmente ho accettato una richiesta che devo dire è stata molto molto, diciamo, pressante, sì. Nel senso migliore del termine, da parte di Abel Ferrara e anche dei distributori italiani, di fare questo lavoro, pur sapendo che è un lavoro che 9 su 10 lo sbagli, perché appunto già il doppiaggio è un tradimento, per di più doppiare Dafoe, per di più doppiare Dafoe che fa Pasolini, per quanto uno se ne possa essere occupato, è una bella gatta da pelare. E aggiungo e concludo dicendo che quello che Abel Ferrara voleva e ha voluto anche, diciamo, da me, era qualcosa di molto distante dalla mia natura. Sì. È una natura, diciamo, anche la mia è una natura più naturalmente predisposta a un certo tipo di mimetismo, che non è mai imitazione ma che è evocazione, sì, no? di un personaggio, che sia un personaggio reale o che sia un personaggio di fantasia, quindi soprattutto vedendo William Dafoe io pensavo a un lavoro più evocativo rispetto alla voce di Pasolini di quanto invece categoricamente non volesse Abel, che voleva, come dire, una sorta di voce del pensiero, un'interpretazione personale che non tenesse minimamente conto della voce di Pasolini. Questa cosa onestamente ho un po' faticato ad accettarla, soprattutto per il fatto che fu in alcuni momenti impressionantemente simile, per cui mi sembrava che ci fosse il rischio di fare un lavoro a metà, cioè da un lato c'era un attore che col suo corpo raccontava in maniera molto viva l'anima di quel poeta, e dall'altra una voce che andasse in un'altra direzione. E non lo so, adesso stasera lo riascolterò con più calma. È difficile, è veramente difficile, cioè già è molto difficile quando rivedo un film in cui sono impegnato totalmente, diciamo, rivedere quello che si è fatto senza soffrire. Nel caso in cui tu devi riascoltare soltanto una voce su un altro tipo, insomma il supplizio è ancora più forte, per cui penso che ci vorrà ancora qualche visione per farci pace. Sicuramente tocca dei punti focali, dalla censura a Salò al progetto di film con Eduardo a cui facevi accenno, al romanzo Petrolio. Rispetto invece all'episodio della morte, non tiene però in conto della riapertura delle indagini, per cui è un evento un po' più complesso dell'opera di Tre Balordi, come compare nel film. Ma guarda, diciamo che ci sono due discorsi da fare. Uno è il discorso giudiziario, che come sappiamo è un discorso ancora aperto, che poi si richiude, che poi si riapre, e che non sapremo mai se in qualche modo se ne verrà a capo e fra quanti anni, anche perché, diciamo, l'unico testimone diretto e tuttora riconosciuto colpevole non dà nessuna prova. Non ha mai dato nessuna prova né di affidabilità né di sincerità in tutte le sue mille versioni che ha cambiato in questi anni, e quindi è molto difficile a tanti anni di distanza. Quello che è certo e che è stabilito anche dalla sentenza è che lui non era solo e che ci fossero altre persone che hanno partecipato in maniera determinante a quello scempio, e questa è una cosa. Su questo, come sappiamo, sono stati scritti fiumi di, sono stati versati fiumi di inchiostro, c'è chi vuole la riapertura delle indagini perché è convinto che dietro quel delitto ci sia uno dei tanti misteri italiani, il cosiddetto complotto, altri, e molti di questi sono le persone più vicine a Pasolini, da Nicola Andini, suo cugino, a Ninetto, ad altre persone, hanno un'idea completamente diversa e molto più casuale di quella morte. Il film, e questo è il secondo punto, decide diciamo intenzionalmente di non affrontare questo, e secondo me come dire, non è una mancanza, anche se a qualcuno può sembrare una mancanza, perché non è, diciamo, è qualcosa di completamente diverso da un film anche vagamente giudiziario, come poteva essere stato ad esempio il film di Marco Tullio Giordana, che invece fu tutto focalizzato sul delitto e che portò anche a una riapertura delle indagini. Qui c'è un punto di vista molto più vicino, diciamo, al Pasolini poeta, e quindi quello che interessava da Ferrara era, attraverso il racconto di queste 36 ore, restituire soprattutto l'umanità di quest'uomo, e quindi ha scientemente deciso di tenersene più distante, pur raccontando la morte ovviamente nella presenza di altre persone, non per come dire, una questione di comodo, ma veramente per una scelta molto precisa. Fabrizio, io ti ringrazio. Da oggi nelle sale Pasolini, Willem Dafoe è doppiato da te. Qui ci sono tra l'altro i Valle, che stanno per riprendere oggi la loro trasmissione. Ti salutano. Nella persona di? Beh, sono in cinque. Ah, vabbè, fantastico. Li saluto tutti e cinque, li abbraccio tutti e cinque. Ciao. Ciao, ciao ragazzi. Allora, un abbraccio e alla prossima, Fabrizio. A presto, ciao. Ciao. Bene, era Fabrizio Gifuni per quanto riguarda il film Pasolini di Abel Ferrara. Con questo concludiamo. Visionari vi dà appuntamento a giovedì prossimo dalle 14 alle 15. I riferimenti li trovate sul sito internet della radio ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook di Visionari. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.